Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. In the course of the evening's performance that you're about to hear, we will be presenting, as far as possible, a spectrum of the kind of songs, the traditional, the work songs, the love songs, and the contemporary political songs that are sung in the British folk song revival. And the other end through at noon. Holy Quiddy and do and done, madam, will you do the seal of me as a harbor key for me and for you? I'll tack your wager, bonny lad, 5 and 10, that I'll get to the top of the hill and come back and meet again. Holy Quiddy and do and done, madam. The steel of me is a bracky fair maiden for you. As she walked up yon high hill, it was the hour of noon, and there she saw her true lover sleeping in the broom. Holy Mary and do and done, madam, will you go? The steel of me is a bracky fair maiden for you. Oh, greeting, greeting, when she was but laughing when she end, 'twas all for her body's safety and the wager she did win. Oh, leave me the end, and on, madam, will you do? The seal of me is a pretty fair maiden and free. Buonasera a tutti, siamo sempre su Ethno Chic. Buonasera a tutti. Buonasera, ma Vladimir, ma che lingua è questa? Questa era una ballata popolare, tradizionale, dal nord dell'Inghilterra, forse anche della Scozia, Roofy Deal, e quindi l'inglese era un po' particolare. Ed era un concerto di esattamente 50 anni fa al Teatro Lirico di Milano. Erano in scena i London Critics Group, guidati da Ian McCall e Peggy Sieg, e chi ha registrato è la persona che... a cui noi stasera dedichiamo un piccolo tributo a 15 anni la scomparsa, ovvero sia Roberto Leidi, che come possiamo presentarlo? È stato un giornalista, un etnomusicologo, un animatore culturale nel nostro paese, diciamo per almeno 50 anni. E perché abbiamo cominciato da questa esperienza, insomma, dell'Otton Critics Group? Da questi strani gaelici. Perché in qualche modo uno degli stimoli che ha spinto poi Roberto Leidi a occuparsi poi di musiche popolari è stato proprio il lavoro di Alan Lomax, questo grande studioso di tradizioni popolari non solo nordamericane ma anche un po' di tutto il mondo. È stato uno di quelli che ha dato il maggior impulso, insomma, alla riscoperta e allo studio delle tradizioni popolari anche nel nostro paese, facendo molte ricerche con Diego Carpitella, Ernesto De Martino. E non a caso Roberto Leidi si avvicina appunto e si incuriosisce da persona qual era lui, molto curioso verso tutto, si è occupato addirittura anche di non solo di tradizioni popolari, di musica, ma anche di minerali, per dire, insomma, la sua collezione, il suo archivio che è ancora custodito nella sua casa sul Lago Maggiore, anzi esattamente sul Lago d'Orta, è pieno ancora di veramente di materiali di tutti i tipi, e giustamente suo figlio non vuole che questo immenso patrimonio venga scorporato, perché faceva parte un po' della complessità della, della persona Roberto Leidi, insomma, il quale era sempre curioso e interessato. Ne parlo per un'esperienza diretta, nel quanto sono stato uno dei suoi ultimi allievi, insomma, all'Università di Bologna. Mi sono laureato con lui nel 2001, anno in cui lui, se non ricordo male, poi è andato in pensione. E dicevamo appunto di questo suo legame con la tradizione e la riscoperta della tradizione negli Stati Uniti e in Inghilterra, in Gran Bretagna, appunto, e il suo legame con Anne Lomas, a cui aveva dedicato questo volumetto, per esempio, illustrato da Guido Crepax, eroe fugli di legge nella ballata popolare americana, che praticamente è uscita in Italia ben 60 anni fa, con i disegni di Guido Crepax, in cui raccontava tutte queste storie, insomma, queste ballate popolari americane in cui c'erano tutte queste storie di questi personaggi, banditi, fuorilegge, personaggi storici, che era un po' un modo di ripercorrere la storia degli Stati Uniti attraverso però un'altra visione, non quella ufficiale, insomma, ma quella un po' vissuta dal basso, insomma. E infatti il prossimo brano che andiamo a sentire è una canzone non a caso interpretata da Woody Guthrie, che è stato un principale esponente, insomma, della musica, e poi ha influenzato Bob Dylan e tanti altri, Bruce Springsteen tra gli altri, che è Pretty Boy Floyd, che è una storia appunto su questa specie di criminale che appunto addirittura competevano, insomma, per chiederne la paternità, perché questi fuorilegge molto spesso erano vissuti come nella tradizione popolare come dei personaggi quasi mitici. Per esempio in Ungheria molto spesso i fuorilegge erano nell'Ottocento erano dei nobili che si erano liberati al potere austro-ungarico e quindi erano delle specie di Robin Hood. E quindi questa è proprio stata scritta da Woody Guthrie, in uno stile proprio tradizionale, e quindi ve la facciamo sentire. If you'll gather around me, children, a story I will tell about Pretty Boy Floyd, an outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee, a Saturday afternoon. His wife beside him in his wagon, as into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude. Vulgar words of anger, and his wife she overheard. Pretty boy grabbed a log chain and the deputy grabbed his gun. In the fight that followed, he laid that deputy down. Then he took to the trees and timber to live a life of shame. Every crime in Oklahoma was added to his name. But a many a starving farmer, the same old story told, how the outlaw paid their mortgage and saved their little homes. Others tell you about a stranger that come to beg a meal, underneath his napkin left $1,000 bill. It was in Oklahoma City, it was on a Christmas day. There was a whole carload of groceries come with a note to say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Here's a Christmas dinner for the families on relief. Yes, as through this world I've wandered, I've seen lots of funny men. Some will rob you with a six-gun and some with a fountain pen. And as through your life you travel, yes, as through your life you roam, you won't never see an outlaw drive a family from their home. Buddy Guthrie lo conosciamo più o meno tutti, o comunque immagino molti dei nostri ascoltatori lo conoscono, anche Azzurro forse lo conosce. Sì, non lo conosco particolarmente, però è un stile di musica che proprio mi incuriosisce, mi piace molto, perché sentivo, ascoltavo da ragazza anche. Ma no, infatti stavamo parlando che appunto questo sabato ritorna all'Osteria delle Dame, che da poco ha riaperto qui a Bologna, Deborah Copperman, che è un'artista americana che appunto ha conosciuto tutto il vario giro del Greenwich Village alternativo degli anni 50-60, quindi Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan e Joan Baez, e viene a fare un concerto questo sabato. Se siete interessati potete cercare sul sito, insomma è sicuramente un personaggio interessante, che fra l'altro è più famosa qui a Bologna perché ha suonato come chitarra principale nei primi dischi di Francesco Guccini. Un esordiente, insomma. Esatto, una nuova proposta, come si direbbe per il discorso Sanremo. E noi invece adesso facciamo proprio un salto, perché in realtà io ho pensato che una cosa molto interessante che si poteva fare per ricordare Lady è una parte della sua storia che forse non è molto conosciuta, quindi di Lady, ricercatore all'estero, di cui lui poi ha anche, insomma, è abbastanza riconosciuto a livello, insomma, almeno europeo, internazionale, perché ha fatto comunque delle ricerche sul campo piuttosto pionieristiche. E di tutte queste tracce ne troviamo molte documentazioni, che invito chiunque voglia fare dei lavori di tesi o di ricerca a recarsi al centro di etnografia e dialettologia di Bellinzona in Svizzera, dove praticamente nel 2002 Roberto Leido ha donato tutto il materiale audio e gli strumenti musicali, oltre 650 strumenti tradizionali da varie parti del mondo, e quindi ci sono queste archiviate, tutto questo materiale sonoro, che sono bobine, che sono registrazioni discografiche, e tra questo materiale abbiamo anche appunto le sue ricerche sul campo all'estero. E partiamo proprio da questo materiale che lui ha registrato nel 1968 insieme alla moglie ricercatrice Sandra Mantovani, che è stata una compagna ideale di Roberto Leidi, sia come cantante del folk revival italiano, appunto la ricordiamo in Bella Ciao, e anche come ricercatrice sul campo. Per esempio qui siamo a Saint-Marie-de-la-Mer, comune dove fanno il pellegrinaggio Zingaro alla foce del Rodano in Francia ogni anno a maggio, e questa ricerca è stata fatta proprio nel maggio 68, proprio l'anno del maggio francese, erano giorni di sciopero generale e in quei giorni non c'erano quindi i soliti turisti curiosi che potete trovare in gran numero anche se andate adesso, insomma, anche in cui non si può, insomma, in qualche modo vivere la cosa in maniera tranquilla, e quindi sono state fatte queste registrazioni in cui c'erano solo praticamente i Rom. In questo caso sentiamo delle Bulerias, il modulo molto simile a quello del flamenco, e andiamo a sentirle. Yo me voy a comer ahora. Mira, flamenca, mira si me pena. grande. Bueno, señora, hombre, que tú estás podrida, ya te tiro la vida, por los rincones. Te fui queriendo con locura y me despacho el corazón. Fui queriendo con locura y me separé un corazón. Salto. Sembrano sì, quasi Gypsy King. No, sto scherzando. È la versione rozza o primigenia di Gypsy King. Sì, però diciamo che sostanzialmente tutto, sia la musica manouche che anche la musica appunto dei gruppi, come dicevi te, Gypsy King, qualcosa nasce un po' da questo, insomma, la situazione in cui si pratica in maniera molto festosa tutte queste, questa componente collettiva di musiche. La cosa interessante in molte registrazioni che sentiremo è proprio questo aspetto, insomma, l'aspetto un po' meno professionale, ma di capacità di suonare, di partecipazione, di ascolto. Come nel caso, appunto, sempre restando in ambito, insomma, di musica rom, di musica zingara, di queste registrazioni che ha fatto sempre nel 68, anzi no, scusate, queste sono del 69, maggio 69, quindi un anno dopo, siamo però nel nuovo quartiere di Skopje, Macedonia, dove abitano i Rom. È nuovo perché c'era stato il terremoto a Skopje, un disastroso terremoto, e quindi così. Sentiamo quindi queste registrazioni sempre fatte da Roberto Leidi. Thank you. Era sempre etno chic e niente, e quindi poi continuiamo a viaggiare, perché appunto con Lady ha viaggiato molto in realtà, e seguiremo un po' un percorso cronologico. Da qui ci spostiamo infatti sempre nel 69, nel maggio 69 Lady lo troviamo appunto a fare delle registrazioni nell'ex Jugoslavia e Macedonia, Skopje, e a luglio è al Festival Panafricano di Algeri. Questo Festival Panafricano era un po' il punto di, il primo festival in cui non c'erano solo star della musica africana del periodo come per esempio Miriam Makeba, ma anche appunto gruppi di musica tradizionale e parate per le strade, insomma tutto quanto anche legato un po' a un periodo in cui c'era un grande entusiasmo per la appena ritrovata indipendenza in quasi tutti i paesi africani appunto negli anni 60, sulla spinta dei movimenti di liberazione, e non a caso la prima edizione ad Algeri. E Roberto Lady si trova lì a registrare, e adesso sentiremo proprio un frammento da queste registrazioni, da questi dischi che si chiamano Ritmi e Strumenti Africani, proprio di musica algerina, proprio presa in queste parate. Thank you. sempre Ethno Chic, sono le 9.58 su Radice del Capo. Mi domando, ma questo rumorino che si sentiva non è della famiglia, almeno, se non è la stessa di quello che fa salire serpentina che si vede nei cartoni animati? Quello dei serpentini è molto più lontano, perché è uno strumento proprio particolare che viene usato nell'India. E questo invece siamo nel Nord Africa, sono quegli strumenti che derivano dagli oboi, dai piferi e da clarinetti, insomma, che ci sono ancora già dai tempi degli egiziani, insomma, si vedono ancora negli affreschi e bassorilievi dell'antico Egitto e sono tramandati nei secoli. Addirittura, per esempio, in Marocco hanno uno strumento che si chiama guimbri, che è una specie di liuto che è praticamente uguale a quello che vediamo suonato negli affreschi delle tombe dell'antico Egitto. Quindi è incredibile, proprio si vede nei particolari, si vede praticamente uguale. Fra l'altro abbiamo la fortuna di aver trovato alcuni resti archeologici di alcuni strumenti, di quei strumenti, insomma, dell'antico Egitto, della Mesopotamia, quindi abbiamo più strumenti per osservare questa cosa. E sulla parte africana poi non è finita qui la parte, insomma, della ricerca proprio sul campo di Leidy. Mi piace ricordare che comunque sempre in quel famoso archivio che è stato donato, registrazioni che sono state donate a Bellinzona, vorrei sottolineare il fatto perché Leidy ha dovuto lasciare tutta questa parte di archivio, ha preferito lasciarlo a questo centro di Bellinzona, perché gli è stato garantito il fatto che sarebbe stato archiviato con una certa modalità, e in più sarebbe stata garantita la conservazione degli strumenti musicali in un luogo, insomma, dove non sarebbero andati a finire male, ecco. E questo sicuramente per un discorso economico, ma anche sicuramente di interesse, perché quando Roberto Leidy si è rivolto alle istituzioni bolognesi o l'università eccetera eccetera, o anche a Milano, la regione eccetera eccetera, ha avuto comunque delle risposte molto vaghe, per cui lui sapeva che non poteva lasciare il compito di questo ai suoi eredi, perché sarebbe stato un compito troppo gravoso, pensato, insomma, seguendo le orme di altri personaggi come Quasimodo eccetera, che hanno lasciato l'archivio dei propri genitori in Svizzera. Ecco, ho pensato bene, insomma, di fare in modo che, almeno anche se un po' distante da noi, fossero almeno conservati e soprattutto disponibili, appunto, a ricercatori, chiunque voglia fare degli studi su questi archivi. E per restare sull'Africa, appunto, non ci sono solo, e anche in generale non ci sono solo tra il materiale inedito di Roberto Leidy, ci sono anche quello che hanno fatto magari alcuni suoi collaboratori, studenti. Ad esempio, è interessante vedere che ci sono almeno tre bobine dedicate alla musica del Senegal, e che sono state fatte da un certo Alan Sorrenti, che probabilmente tutti voi conoscete per essere invece un cantante di musica leggera, dagli esordi progressive di del disco Aria, poi ai Figli delle Stelle o via di lì. E lui però nasce proprio come essere uno studente del DAMS che ha fatto delle ricerche sul campo in Senegal. E un'altra ricerca invece in Europa che ha fatto e che è stato in qualche modo pionieristica è quella in Galizia. Galizia si intende la regione della Spagna, a nord-ovest della Spagna, e soprattutto nella fascia costiera, nella provincia della Rias Baixas, in cui praticamente ha documentato questo tipo di musica per la gaita, la zampogna locale, che soprattutto vecchi repertori che andavano perdendosi. E quindi sentiamo proprio un passo doble per zampogna, poi sentiamo invece due danze cantate, e poi un baile suonato sul pandeiro, che è una specie di tamburello che abbiamo già visto quando abbiamo parlato del Portogallo, della musica regionale. Thank you. Brian Flore bello l'avio l'ormo por farà la smorta. Fiesta del patrón, la alegría de las mapas, el olor de las manzanas, bellos campos, bellas flores, es una aldea asturiana, caminito de la fuente, va llorando una morena, porque no tiene vestido para lucir en la fiesta. Queste erano registrazioni invece dell'agosto 1969, quindi Lady era sempre un po' in viaggio in questo periodo tra fine 60 anni 70, perché abbiamo visto che a maggio era in era un gitano. No, poi ha iniziato a lavorare al Dams fisso, quindi in qualche modo tutte queste sue esperienze poi le ha portate, come dire, nelle sue lezioni. Per esempio i brani che vi ho fatto sentire prima da Skopje vengono proprio da una raccolta che è stata fatta sulla base delle sue lezioni sull'influenza turco-ottomana e zingara nella musica dei Balcani, che è stato per anni il corso monografico. Bello avere un prof gitano. Sì. Nel senso che ha girato il mondo e ha notizie di prima mano. Sì, infatti la cosa bella delle sue lezioni è che lui non faceva solo un excursus e faceva ascoltare i brani, ma raccontava anche molte esperienze proprio di viaggio, insomma, come erano questi personaggi, insomma, in qualche modo riusciva a trasmettere a trasmettere quella che era l'idea, il contesto dove lui aveva visto queste cose. Le aveva viste dal vivo, non le aveva viste sentite su dei dischi o sentite a delle conferenze. E questa è una cosa, insomma, molto unica. Nel 72 siamo in Marocco e appunto Lady registra queste musiche dei berberi e dei mauri del Marocco. Si concentra soprattutto su questa musica, diciamo, tradizionale contadina, insomma, di queste comunità. E quindi sentiamo un brano, Gnawa, insomma, dei neri sudanesi, che poi è stato molto studiato e molto ripreso anche da altri studiosi, anche da musicisti, insomma. E poi un brano dalla cerimonia di matrimonio, dove sentiremo un musicista che suona strumento a fiato, che aveva 11 anni, era il fratello dello sposo di questo matrimonio. Vai Mariana. 11. Thank you. quasi ipnotizzato come il serpente di cui parlava prima Azul. Sì, ma comunque ragazzo 11 anni, complimenti. Eh sì, appunto, quello che suonava era il fratello sposo, insomma. Ecco, una gran competenza musicale, continua ancora oggi, e Nico Staiti, che è un po' quello che ha raccolto l'eredità di lei dell'Università di Bologna, l'anno scorso ha proprio fatto un documentario, insomma in questi anni sta facendo un lavoro sui riti femminili a Meknès, e l'anno scorso in Cineteca, proprio durante il Festival Bastimento, ha fatto vedere un po' queste situazioni rituali, insomma, che ricordano alla fine qualcosa di quello che abbiamo ascoltato oggi, insomma. E l'altro importante, forse più importante, l'importante ricerca al di fuori dell'Italia è stata fatta proprio a Creta e nell'isola di Creta, quindi in Grecia, a partire dall'anno 1977, quando praticamente, perché lei si reca a Creta a fare ricerca? Perché era entrato in contatto con uno studente di greco che stava qui in Italia, Stelios Leinakis, che poi si laureerà in architettura al Politecnico di Milano, il quale praticamente, insomma, si incrocia con Lady, perché uno studente di Lady dice: guarda, io conosco un suonatore di lauto cretese, insomma, magari vi metto in contatto. Loro si incontrano e Stelios Leinakis porta una cassetta di musica cretese, che ha registrazioni che aveva lui, insomma. E quindi, insomma, Roberto Lady è molto interessato, dice: l'estate prossima andiamo a fare una ricerca sul campo. E quindi coinvolge la collega Tullia Magrini, e poi sicuramente la compagna Sandro Mantrovani che lo segue, e poi ci sarà anche Loris Azzaroni, e poi un secondo giro anche il fotografo Mauro Anselmi. Insomma, fare un'equipe di studio in cui vanno a fare le registrazioni, a incontrare musicisti per tutta l'isola di Creta, a fare le fotografie. Azzaroni e Mantrovani prendono nota su dei taccuini di viaggio, di tutti gli spostamenti, di quello che raccontano. E insomma, è una documentazione molto, molto importante, perché forse è la prima ricerca così capillare fatta nell'isola di Creta, forse paragonabile solo a quella di uno svizzero, Baud Bovy, che aveva fatto delle ricerche alcuni decenni prima. E infatti poi da questo poi nascono poi tutta una serie, un rapporto tra l'isola tra i musicisti cretesi e l'Italia particolare. Loro vengono a suonare al Teatro Comunale di Bologna, alla Fenice di Venezia, al Piccolo Teatro, e lei va più volte fino praticamente al 2003 quasi a fare conferenze appunto nella provincia di Creta occidentale. E adesso noi quello che vi facciamo sentire, poi ritorneremo su Creta, magari avremo anche dei musicisti qui che parleremo più avanti ad aprile probabilmente direttamente di questa esperienza, insomma, della musica cretese. Vi facciamo sentire gli esempi da questo disco importante, Musica Popolare a Creta, I Violinisti, dedicata alla musica per violino, strumento che avevano portato i veneziani appunto a Creta nel periodo in che dal 1200 fino al 1600, quando la Repubblica di Venezia appunto dominava su Creta, e queste musiche che sono un po' i balli antichi di Creta, che risalgono secondo la tradizione al XVIII secolo. In realtà poi ci sono testimonianze archivio per cui la musica da ballo era diffusa, era in voga anche fin dal XVI secolo. E quindi sentiremo questi brani, che sono dei Sirtos, che sono Galuvianos e Drapianos, e questo Pentozali. Thank you. dobbiamo sfumare e insomma comunque, e salutare. Sì, salutare brevemente. Quindi ci rivediamo il prossimo mercoledì. Vi salutiamo e lasciamo anche un saluto di San Valentino. Sì, volendo. Va bene. Allora buon San Valentino a tutti. E la moro, ma la coro leggero mio, sado pedosani. E la ho sado pedosani. E la moro, ma tre core mune, oli di crinegani. E la oli di crinegani. Yeah.